Più che altro, però, Madame de Cambremer era occupata a esaminare le modifiche apportate dai Verdurin alla Raspellier, per poterne criticare alcune e introdurne altre, o forse le stesse, a Féterne. Mi chiedo che roba sia quel lampadario messo tutto di traverso. Faccio fatica a riconoscere la mia vecchia Raspellier, confessò con tono familiarmente aristocratico, come se avesse parlato d'un domestico più per dire che l'aveva vista nascere che non la pretesa di indicarne l'età. E poiché nell'eloquio era alquanto libresca, comunque, soggiunse a bassa voce, mi sembra che se abitassi in casa d'altri avrei qualche ritegno a cambiare tutto così. È un peccato che non siate venuti assieme a loro, disse Madame Verdurin al signor Charlus e a Morel, sperando che Charlus intendesse tornare, che si sarebbe piegato alla regola d'arrivare tutti con lo stesso treno. Siete sicuro che Chantepie voglia dire la pica che canta, Chochotte? Aggiunse, per dimostrare che da grande padrona di casa sapeva prendere parte contemporaneamente a tutte le conversazioni. Ditemi dunque qualcosa di questo violinista, mi chiese Madame de Cambremer. Mi interessa, adoro la musica e mi sembra d'aver sentito parlare di lui. Eruditemi. Aveva saputo che Morel era venuto con Charlus e voleva, invitando il primo, cercare di intrecciare un rapporto col secondo. Aggiunse tuttavia, perché io non potessi indovinare la sua trama, anche il signor Brichot mi interessa. Infatti, pur essendo molto colta, Madame de Cambremer, come certe persone predisposte all'obesità che mangiano appena e camminano tutto il giorno senza smettere di ingrassare a vista d'occhio, aveva un bel approfondire, soprattutto a Féterne, una filosofia sempre più esoterica, una musica sempre più raffinata. Usciva da questi studi solo per macchinare espedienti che le consentissero di rompere con le amicizie borghesi della sua giovinezza e stringere relazioni che all'inizio aveva creduto rientrassero nel giro della famiglia del marito, rendendosi poi conto che erano situate molto più in alto e più lontano. Un filosofo che non era abbastanza moderno per i suoi gusti, Leibniz, ha detto che è lungo il tragitto dall'intelligenza al cuore. Questo tragitto, Madame de Cambremer, non aveva avuto la forza, non più di suo fratello, di percorrerlo. Lasciando la lettura di Stuart Mill solo per quella di La Chelier, a mano che credeva di meno alla realtà del mondo esterno, metteva più accanimento nel cercare di farsi in esso, prima di morire, una buona posizione. Innamorata dell'arte realista, nessun oggetto le sembrava abbastanza umile per servire da modello al pittore o allo scrittore. Un quadro o un romanzo mondano le avrebbero dato la nausea. Un mujik di Tolstoj, un contadino di Millet, erano l'estremo limite sociale che non consentiva all'artista di superare. Ma oltrepassare quello che segnava il confine delle sue relazioni personali, elevarsi sino alla frequentazione di qualche duchessa, era il fine di tutti i suoi sforzi. A tal punto il trattamento intellettuale cui si sottometteva mediante lo studio dei capolavori risultava inefficace contro lo snobismo congenito e morboso che si sviluppava dentro di lei. Questo aveva persino finito col guarire certe inclinazioni all'avarizia e all'adulterio cui da giovane era stata soggetta, simile in ciò a quegli stati patologici singolari e permanenti che sembrano immunizzare chi ne è affetto contro le altre malattie. Non potevo impedirmi, del resto, sentendola parlare, di rendere giustizia, senza ricavarne alcun piacere, alla raffinatezza delle sue espressioni. Erano quelle che risultano comuni, in un determinato periodo, a tutte le persone d'una stessa levatura intellettuale, di modo che l'espressione raffinata fornisce subito, come l'arco di cerchio, la possibilità di descrivere e limitare l'intera circonferenza. Esse mi rendono perciò immediatamente noiosi, come già conosciuti, coloro che le usano, facendo contemporaneamente sì che passino per individui superiori e che mi siano stati spesso offerti come vicini deliziosi e inapprezzati. Non ignorate certo, signora, che molte regioni boschive traggono il loro nome dagli animali che le popolano. Accanto alla foresta di Chantepie Ecco così il bosco di Chantraine. Non so di quale regina si tratti, ma non siete galante con lei, commentò il signor di Cambremer. Beccatevi questa, Chauchot, disse Madame Verdurin. E a parte questo, il viaggio è andato bene? Non abbiamo incontrato che vaghe torme umane di cui il treno era aggremito. Ma per rispondere all'osservazione del signor di Cambremer, regina in questo caso non è la moglie del re, bensì la rana. È il nome che ha conservato a lungo nella zona, come testimonia la stazione di Rainville, che si dovrebbe scrivere Rainville. Eccola, decisamente una bella bestia, disse il signore di Cambremer a Madame Verdurin, indicando un pesce. Era uno dei complimenti grazie ai quali credeva di pagare la propria quota per un pranzo e a restituire di già la cortesia. Invitarli è inutile, diceva spesso parlando con la moglie di certi loro amici. Sono stati felici di averci. Erano loro a ringraziarmi. D'altra parte, devo dirvi che vado quasi ogni giorno a Rainville da molti anni e non ci ho visto più rane che altrove. Madame de Cambremer aveva fatto venire qui il curato di una parrocchia dove lei ha molte terre e che a quanto pare ha le vostre stesse inclinazioni intellettuali. Ha scritto un libro. Credo bene, l'ho letto con infinito interesse, dichiarò ipocritamente Brichot. La soddisfazione accordata indirettamente al suo orgoglio da questa testimonianza fece ridere a lungo il signor di Cambremer. Ah, ebbene, l'autore, come chiamarla, di questa geografia, di questo glossario, disserta lungamente sul nome di una piccola località di cui eravamo un tempo, se così posso esprimermi, i signori, e che si chiama Pont à Couleuvre. Ora è chiaro che, rispetto a quel pozzo di scienza, io sono solo un volgare ignorante, ma sarò andato 1000 volte a Pont à Couleuvre per una volta che c'è andato lui, e il diavolo mi porti se ci ho mai visto uno solo di quei brutti serpentacci. Brutti, dico, malgrado l'elogio che ne ha fatto il buon La Fontaine. L'homme la couleuvre era una delle sue due favole. Non ne avete visti e siete voi che avete visto bene, sentenziò Brichot. Certo, l'autore di cui parlate conosce a fondo l'argomento. Ha scritto un libro notevole. Proprio così, esclamò Madame de Cambremer. Quel libro, bisogna proprio dirlo, è un autentico lavoro da certosino. Sicuramente ha consultato qualche registro. Vengono chiamati così gli elenchi dei benefici e delle cure di ciascuna diocesi, il che ha potuto fornirgli il nome dei patroni laici e dei collatori ecclesiastici. Ma ci sono altre fonti. Uno dei miei più dotti amici vi ha potuto attingere. Ha scoperto che lo stesso luogo era denominato Pont à Quilèvre. Questo nome bizzarro lo stimolò a risalire ancora più indietro, a un testo latino dove il ponte che il vostro amico crede è infestato dai colubri è chiamato Pons cui aperit. Ponte chiuso, che si apriva solo mercé un'onesta retribuzione. Voi parlate di rane. Io, trovandomi in mezzo a persone così colte, mi faccio l'effetto della rana davanti all'areopago. Era la seconda favola. Disse Cancan, che ricorreva spesso, ridendo abbondantemente, a questa battuta con cui era convinto di fare al tempo stesso, unendo umiltà e pertinenza, professione di ignoranza e sfoggio di sapere. Quanto a Cottard, bloccato dal silenzio di Charlus e alla ricerca di ispirargli in altre direzioni, si girò verso di me e mi pose una di quelle domande che, quando ci azzeccava, sbalordivano i suoi malati, mostrando che egli era entrato, per così dire, dentro il loro corpo. E quando invece faceva cilecca, gli consentivano di rettificare certe teorie, di ampliare i vecchi punti di vista. Quando arrivate in luoghi relativamente elevati come questo dove ci troviamo ora, notate un accentuarsi della vostra tendenza alle soffocazioni? Mi chiese, sicuro o di far ammirare o di completare le sue nozioni. Il signor di Cambremer sentì la domanda e sorrise. Non posso dirvi quanto mi diverte sapere che soffrite di soffocazioni, mi lanciò attraverso la tavola. Non intendeva dire che la cosa lo rallegrasse, sebbene anche questo fosse vero. Quell'uomo eccellente, infatti, non poteva sentir parlare di una disgrazia altrui senza una sensazione di benessere e uno spasmo di ilarità che lasciavano subito posto alla pietà del suo buon cuore. Ma la sua frase aveva un altro senso, precisato da quella che la seguì. «Mi diverte», aggiunse, «perché anche mia sorella ne soffre». Lo divertiva, insomma, allo stesso modo che se m'avesse sentito citare come mio amico uno che fosse stato a lungo assiduo in casa loro. «Com'è piccolo il mondo», fu la riflessione che formulò mentalmente e che vidi scritta sul suo volto sorridente quando Cottard mi parlò delle mie soffocazioni, le quali divennero, a partire da quel pranzo, una sorta di relazione comune di cui il signor di Cambremer non mancava mai di chiedermi notizie, non foss'altro che per darne a sua sorella. Mentre rispondevo alle domande di sua moglie su Morel, pensavo a una conversazione che avevo avuta nel pomeriggio con mia madre. Pur non sconsigliandomi, se poteva distrarmi, di andare da Verdurin, mi ricordava tuttavia che era un ambiente che non sarebbe piaciuto a mio nonno e gli avrebbe fatto esclamare «In guardia!» e aveva aggiunto «Senti, il presidente Tourelle e sua moglie mi hanno detto che sono stati a colazione con Madame Bonton. Non mi hanno chiesto niente, ma mi è sembrato di capire che un matrimonio fra Albertine e te sarebbe il sogno di sua zia. La vera ragione, credo, è che ti hanno tutti in grande simpatia. Comunque, il lusso di cui credono che potresti circondarla, le relazioni che, dal più al meno, ci attribuiscono, credo che tutto questo non sia estraneo, anche se secondario. Non te ne avrei parlato perché non ci tengo, ma siccome suppongo che te ne parleranno, ho preferito farlo io per prima. Ma tu? Come la trovi? Avevo chiesto a mia madre. Ma non sono mica io che devo sposarla. Certo, potresti fare un matrimonio mille volte migliore. Ma credo che tua nonna non avrebbe voluto che ti si influenzasse. In questo momento non posso dirti come trovo Albertine. Non la trovo. Ti dirò come Madame de Sévigné. Ha delle buone qualità, almeno lo credo, ma in questo inizio non riesco a lodarla che per negazioni. Non è la tale cosa, non ha l'accento di Rennes. Con il tempo forse dirò è questo. E la troverò sempre perfetta se ti renderà felice. Ma proprio con queste parole, che mi rendevano arbitro della mia felicità, mia madre m'aveva messo nello stato di dubbio in cui ero già stato quando, ottenuto da mio padre il permesso di andare alla Fedre e soprattutto di fare il letterato, avevo sentito di colpo una responsabilità troppo grande, il timore di dargli un dispiacere e la malinconia di quando si smette d'obbedire a degli ordini che, giorno per giorno, ci nascondono il futuro, di quando ci si rende conto che, infine, abbiamo veramente cominciato a vivere come una persona adulta, la vita, la sola vita che sia a disposizione di ciascuno di noi. Forse la cosa migliore sarebbe stata aspettare un po', cominciare col vedere Albertine come in passato, per cercare di scoprire se l'amavo davvero. Avrei potuto, per distrarla, portarla dai Verdurin, e questo mi ricordò che io stesso c'ero venuto quella sera, soltanto per sapere se Madame Putbus era in casa loro o stava per arrivarci. In ogni caso, al pranzo non partecipava. «A proposito del vostro amico Saint-Loup», mi disse Madame de Cambremer, ricorrendo a un'espressione che denotava nelle sue idee una maggior conseguenzialità di quanto le sue frasi non lasciassero supporre, giacché, quando mi parlava di musica, era Egermont che pensava. «Sapete che tutti chiacchierano del suo matrimonio con la nipote della principessa di Germain? Vi dirò che per quanto mi riguarda tutti questi pettegolezzi mondani non mi fanno né caldo né freddo». Fui assalito dal timore d'aver parlato senza simpatia, davanti a Robert, di quella fanciulla falsamente originale, d'intelligenza tanto mediocre quanto era violento il suo carattere. Non c'è quasi notizia di cui veniamo a conoscenza che non ci insinui dei rimorsi per qualche nostro discorso. risposi a Madame de Cambremer, come del resto era vero, che non ne sapevo nulla e che d'altra parte la fidanzata mi sembrava ancora molto giovane. È forse per questo che non è ancora ufficiale, in ogni caso se ne fa un gran parlare. Preferisco avvertirvi, disse seccamente Madame Verduran a Madame de Cambremer, avendo sentito che costei m'aveva parlato di Morel e credendo che, quando aveva abbassato la voce per riferirmi del fidanzamento di Saint-Loup, me ne avesse parlato ancora. Non è musichetta quella che si fa qui da noi. In arte, sapete, i fedeli dei miei mercoledì, i miei ragazzi, come li chiamo, fa paura quanto sono all'avanguardia, aggiunse in tono d'orgoglioso terrore. Qualche volta glielo dico, miei cari piccini, voi andate più in fretta della vostra padrona, che pure non ha mai avuto fama di spaventarsi delle audace. Ogni anno s'arriva un po' più in là. Vedo vicino il giorno in cui Wagner e Dandy non gli basteranno più. Ma è magnifico essere all'avanguardia, non lo si è mai abbastanza, disse Madame de Cambremer, senza smettere di ispezionare ogni angolino della sala da pranzo per cercare di distinguere gli oggetti lasciati dalla suocera da quelli portati da Madame Verduran e sorprendere l'inquilina in flagrante reato di cattivo gusto.